Al-alaq, l'aderenza. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Leggi, in nome del tuo Signore che ha creato. Khalaqal insana min 'alaq. Ha creato l'uomo da un'aderenza. Iqra' wa rabbukal akram. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo. Allazi 'allama bil qalam. Colui che ha insegnato mediante il calamo. 'Allama l-insana ma lam ya'lam. Che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. Kalla innal insana la yatgha. Invece no, in vero l'uomo si ribella. Ar-ra'ahu istaghna. Appena ritiene di bastare a se stesso. Inna ila rabbika ruj'a. In verità il ritorno è verso il tuo Signore. Ara'aita allazi yanha. Hai visto colui che proibisce? 'Abdan idha salla. Al servo di eseguire l'orazione? Ara'aita in kana 'ala al-huda. Pensi che segua la guida? Aw amara bit-taqwa. Che comandi il timore di Allah? Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Non pensi piuttosto che rinneghi e volga le spalle? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Non sa che in vero Allah vede? Kalla. La in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Stia in guardia, se non smette, noi lo afferreremo per il ciuffo. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Il ciuffo mendace peccaminoso. Falyad'u nadiya. Chiami pure il suo clan. Sanad'u zabaniya. Noi chiameremo i guardiani. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. No, non gli obbedire, ma prosternati e avvicinati.